Je vous remercie de l'occasion d'être ici pour parler du parc archéologique et naturel du port de Claudio Traiano. Et j'espère que vous comprenez mon pauvre français écrit dans la légende, mais je pense que ce sera surtout les images à parler pour moi. Et come si può vedere, il parco archeologico si caratterizza per il forte connubio fra la vegetazione e la parte archeologica. Sono immagini, come vedete, di grande suggestione. Visitare il parco è sicuramente una grande emozione. E, riprende quello che è una caratteristica, un pensiero romantico ottocentesco, quello della vegetazione e le murature che si abbracciano in un contesto unico. Purtroppo però non è soltanto così idilliaco, ci sono, legato a questa immagine, delle grosse problematiche di conservazione che vedremo man mano andando avanti con le immagini. E qui c'è un inquadramento di dove è situato il parco. E chiaramente anticamente quello che fu il più grande impianto portuale di Roma era sul mare, adesso è a 3 chilometri di distanza, e questo per i problemi di interramento che l'hanno da sempre caratterizzato. Nasce nel momento in cui l'impianto di Ostia era insufficiente per lo sviluppo commerciale della Roma imperiale, e infatti il sistema degli scavi di Porto, degli scavi di Ostia, compresa anche la necropoli di Porto, formano tutti insieme un sistema archeologico di primaria importanza. E, andiamo avanti. Scusate. Allora, la cosa, adesso attualmente, come vedete, è a 3 chilometri dal mare. E questa è la situazione che potete vedere, che all'interno del XX secolo ha trasformato completamente il territorio. Negli anni 50, proprio con l'inizio dei lavori dell'aeroporto Leonardo da Vinci, la zona ha avuto una forte spinta sia commerciale che urbanistica. Anche il piano regolatore del 62 ha spinto proprio in questo verso, perché ha decretato che molte aree della parte appunto litoranea fossero destinate proprio alla realizzazione di zone industriali, artigianali e commerciali. Questa, chiamiamola così, invasione continua tutt'oggi, tant'è vero che in quella che era la via Portuense, che collegava anticamente, collega ancora il centro di Roma, quindi dalla piramide più o meno, dalla piramide Ostiense fino al mare, è stata fino a 10 anni fa, forse un pochino di più, io mi ricordo i primi anni che lavoravo a Porto, ed era nel 97, viaggiavo per la via Portuense in cui a destra e a sinistra non c'erano costruzioni. Temevo di rimanere per strada con la macchina. Adesso invece c'è un'urbanizzazione fortissima che ha completamente aggredito il territorio. In quest'ottica, in questa situazione, possiamo ben capire che il parco archeologico, sono 33 ettari, è un importantissimo polmone verde. È sicuramente un'area che, preservando non soltanto la parte archeologica, ma anche la parte vegetazionale, è una sacca, una grande risorsa per la biodiversità. Ci sono chiaramente, a questo avviso, tutta una serie di vincoli, oltre ai vincoli chiaramente archeologici, abbiamo anche i vincoli naturalistici. Come si vede anche già dalla diapositiva, possiamo vedere che la zona è sotto i vincoli delle zone della riserva naturale, e soprattutto per le zone, la riserva come zone umide. Ecco, qui c'è la tipologia della situazione delle aree da proteggere, e che, come potete vedere, sono parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale. E le zone di protezione speciale, le ZPS, sono molto importanti, insieme alla SIC, la zona di protezione per per i siti di importanza comunitaria, proprio perché riservano quelle aree dove è importante non soltanto il passaggio ma anche la sosta dell'avifauna. Qui, come ci ha fatto vedere anche il collega precedentemente, anche in quest'area sono tutelate tutta una serie di specie che non soltanto passano ma anche nidificano nella zona. Allora, vediamo un po' come sorge, dove sorge il parco. Allora, noi sappiamo che nel 42 l'imperatore Claudio decide di costruire questo nuovo porto proprio perché, come vi dicevo, quello di Ostia Antica era ormai insufficiente e il trasporto delle merci via terra era anche altamente pericoloso. Già Giulio Cesare in passato aveva pensato di creare dei collegamenti marittimi, ma non era stato effettuato nessun impianto. Claudio lo realizza scavando nell'entroterra una parte della costa e creando due grandi bracci di molo. Questo è il primo impianto, ma da subito si creano dei grandissimi problemi di insabbiamento dovuto a due motivi. Allora, uno per i forti venti di libeccio che spiravano e spirano ancora chiaramente verso la costa e quindi impedivano a tutti quelli che sono anche adesso i detriti del Tevere di poter prendere il largo e quindi si ancoravano sulle dune di sabbia lungo la costa. Questo ha creato chiaramente man mano questo problema dell'interramento. E Traiano pensa dunque di ampliare questo porto scavando ancora più in zona protetta e nell'entroterra un altro bacino, il bacino esagonale. Perché esagonale? Molte fonti antiche ci dicono perché era un gioiello idraulico ingegneristico dell'antichità. Di fatto questa forma permetteva l'ancoraggio di più navi e anche con maggior sicurezza. La costruzione del porto ha un grande impatto sul territorio perché chiaramente per portare le merci a Roma si crea quella che era la fossa Traiana, quindi un canale di collegamento che dal mare si congiungeva con il Tevere e da qui nasce l'Isola Sacra, quindi la trasformazione proprio fisica del territorio avviene in maniera potente, molto, molto evidente. Allora, questo è quello che stavamo dicendo, la situazione, il problema dell'insabbiamento continua sia dal primo impianto che negli impianti successivi, tant'è vero che le cronache ci parlano di squadre di dragatori che si tuffavano all'interno del bacino e alleggerivano fisicamente, alleggerivano fisicamente il fondale dalle sabbie. E qui c'è un piccolo anche excursus della trasformazione del territorio anche dal punto di vista vegetazionale, quindi man mano che la costa procedeva, qui siamo nel IV secolo, e avanzava anche la parte vegetazionale caratterizzata, questo ce ne parlano anche di questo le fonti antiche, caratterizzata chiaramente da una vegetazione soprattutto igrofila, cioè piante che riuscivano a vivere e tutt'oggi ci sono in zone particolarmente umide come per esempio i pioppi, i salici. E nel IV secolo, proprio in seguito alle devastazioni dovute alle invasioni, il porto comincia a decadere per il semplice fatto che non era più possibile difenderlo, ma soprattutto non era più possibile poter attuare quelle opere di alleggerimento che lo salvaguardavano. Quindi l'interramento diventa man mano sempre più potente. E sempre parlando della vegetazione, ci offre un aiuto Plinio il Giovane, che parla in una lettera che scrive al suo amico Gallo, parlando della sua, descrivendo la sua villa laurentina, parla della vegetazione che vede dalla sua finestra. Ed è una vegetazione chiaramente soprattutto di querceti, di Quercus ilex, una vegetazione ricca di mirto, di rosmarino, quindi di una vegetazione tipica mediterranea, di lauri, tant'è vero che la zona prospiciente è quella del lauretum, che già anticamente era presente e a tutt'oggi ve ne sono ancora dei residui molto importanti, se non fosse poi stata soppiantata per scelte particolari dal Pinus pinea. Allora, andando avanti, ecco, qui c'è un piccolissimo schema, però è importante il riquadro 4 che ci parla della trasformazione, dell'avanzamento, cioè del cambiamento del corso del Tevere. Il Tevere, come sapete, ha dei fondali molto bassi ed è per questo che, per esempio, per il trasporto delle merci dai porti fino a Roma non era attuata una navigazione a vela. Le barche, le imbarcazioni erano molto piatte ed erano trascinate con questo sistema detto dell'allaggio, quindi con queste corde trainate da buoi che sospingevano la barca fino in città. E nel 1557 c'è questa grande inondazione, in cui il Tevere cambia, trasforma in un punto la sua ansa, e questo all'altezza di Ostia Antica. Infatti possiamo vedere il castello di Giulio II, che ancora chiaramente circondato dal fossato che era pieno d'acqua del Tevere, che adesso è completamente asciutto e l'ansa si è spostata di qualche chilometro. Per chi va a Ostia Antica è molto interessante vedere, si vede bene salendo sul teatro di Ostia Antica e guardando davanti a sé, si vede una linea di alberature di populus, di piante appunto tipiche delle zone umide, che segnano ancora, non sono certo quelle di allora, ma si sono rimasta la traccia e sono state ripiantate sempre lungo quella linea, che è l'antica linea dell'antica ansa del Tevere. Quindi è una traccia che si vede visivamente molto, molto interessante. E chiaramente questi problemi di insabbiamento hanno trasformato il territorio, hanno trasformato man mano il territorio. Si vede molto bene dalle planimetrie antiche, cioè dalle piante antiche. Io ne ho messa una prima del cambiamento dell'ansa del Tevere e una dopo. Adesso le dune che hanno creato tutti questi problemi anticamente praticamente sono scomparse dal litorale romano. Per chi conosce Ostia Antica forse avrà presente che c'è una chiesa che è una collinetta a circa 20 metri d'altezza, perché tutta la zona è pianeggiante. Stella Maris mi sembra che si chiama la chiesa. È costruita sopra l'unica duna superstite di tutto il litorale, e quindi c'è proprio perché c'è stata la costruzione di questa chiesa che è stata consolidata e mantenuta. Possiamo vedere i suoi 20 metri d'altezza, adesso non lo possiamo vedere in nessun'altra situazione. Chiaramente tutto questo problema dell'interramento ha trasformato il paesaggio, in cui era complicato il deflusso delle acque verso il mare, in una zona altamente paludosa. Anche qui abbiamo delle vasce, non abbiamo i tori, ma l'area era totalmente destinata all'allevamento, perché l'agricoltura non era possibile in una zona così, così invasa dall'acqua, chiaramente. E tra le altre cose, il paesaggio era sicuramente meraviglioso allora, ma non poteva essere fruibile per il semplice fatto che era invaso da malattie. La malattia più diffusa era quella della malaria, la zanzara anofale, che causava tantissima mortalità fra la popolazione e soprattutto fra i bambini. A questo punto cominciano, alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, i due grandi interventi di bonifica di tutta l'area. Sono degli interventi eseguiti da queste squadre di dragatori che venivano dal nord Italia, dove sicuramente c'era in corso una grave crisi economica, e quindi questi ravennati si sono spostati per questi lavori delle bonifiche pontine. La mortalità fra i lavoratori è stata altissima, si parla appunto più del 70% di morti. E quindi questo, chiaramente la bonifica ha trasformato completamente la situazione idrologica e sanitaria, ma ha trasformato anche il territorio e sono andate perdute quelle grandi caratteristiche naturalistiche che abbiamo potuto vedere, che si mantengono ancora per esempio nella Maccamarca e in altre zone, e mentre invece il delta del Tevere l'ha completamente perdute. Queste, vabbè, l'immagine parla da sola, queste sono le opere del consorzio di bonifica e queste sono il territorio trasformato in una piana completamente, diciamo, spianata, trasformata dall'uomo e segnata da questi canali. I canali di bonifica segnano completamente tutto il territorio ostiense e di Fiumicino. E alcuni subiscono un grosso degrado e vengono addirittura utilizzati come scarico di risulta. E altri invece, quelli più grandi, sono molto importanti per far confluire le acque verso i canali maggiori e fino al mare. In questa immagine abbiamo il bacino esagonale di Traiano e la Darsena di Claudio, momenti diversi rispetto al momento della bonifica. La Darsena è stata bonificata nel periodo di Torlonia il bacino esagonale, anche la Darsena. Quel bacino esagonale è stato utilizzato ed è utilizzato ancora per un sistema di irrigazione. Ecco, queste sono le immagini dei ravennati al lavoro, com'era la situazione alla fine dell'Ottocento e la sistemazione della bonifica Torlonia. Allora, vediamo come nasce il nostro parco archeologico naturalistico. È situato proprio sul terreno di sedimentazione che si è depositato nell'area in 2000 anni. E nel 1924 è stato il principe Torlonia che dopo la bonifica decise di trasformare l'area in un'azienda agricola modello e ha piantato tutta la vegetazione, quindi gli alberi che possiamo vedere noi ancora oggi, sono gli stessi, tant'è vero che dal 1924 adesso stiamo parlando di alberature che hanno 90 anni e quindi di alberature che possono definirsi a tutto titolo delle alberature storiche. Qui vediamo delle immagini che parlano della sistemazione come azienda agricola modello, quello è il casale Torlonia e le opere, come vedete, di bonifica con i canali e le chiuse, perché dopo aver irreggimentato le acque c'era bisogno chiaramente invece di irrigarle e quindi sono state fatte queste tracce che noi abbiamo lasciato come memoria di un'archeologia industriale. Okay. Quello che noi chiamiamo il prato dell'Ortolano. Allora, dopo questa diciamo, è molto particolare, perché cosa ci fanno i leoni? Ci fanno perché dopo questa sistemazione in tenuta agricola c'è stato un periodo di abbandono, un periodo di trasformazione dell'area in un parco, uno zoo safari, quindi si poteva girare per l'area con delle macchine e poter incontrare appunto degli animali non certo nostrani. Dopodiché è seguito un periodo di abbandono e queste sono le conseguenze del periodo abbandono. Una cosa volevo dire, che oltretutto in seguito allo zoo safari si è sviluppata dei parassiti all'interno dell'area che per molti anni hanno creato dei grossi problemi a noi travaglieri, noi che ci lavoravamo, perché creavano delle forti allergie, intolleranza, cioè dovevamo veramente andare sul posto, ci avevano consigliato un modo che era quello di cospargerci di limone, e noi lo facevamo, e quindi tutti cosparsi di limone per impedire che poi questi animali ci si attaccassero addosso. È durato qualche anno, poi man mano non abbiamo dato dei prodotti e man mano sono scomparsi, perché probabilmente gli piacevamo meno degli animali esotici e quindi sono andati perduti. Allora, la situazione che abbiamo trovato quindi al momento dell'intervento era una situazione altamente inselvatichita, talmente inselvatichita che non permetteva l'accesso e la visualizzazione né dei reperti archeologici, ma soffocava anche le alberature importanti del parco, quindi creando dei danni anche dal punto di vista vegetazionale. E gli interventi, come potete vedere, sono consistiti, andiamo avanti, nell'eliminare soprattutto gli alberi morti e quelli che avevano dei problemi di assesto, ovvero siccome la vegetazione era così fitta che le alberature si sono appoggiate con le chiome l'una con l'altra e hanno poco sviluppato l'apparato radicale, anche perché il terreno di sedimentazione è un terreno abbastanza povero. E quindi nel momento in cui noi siamo intervenuti per liberare l'area da tutta la vegetazione che la soffocava, eliminando anche molti alberi che avevano dei problemi, avrebbero causato problemi di sicurezza perché avevano perduto la stabilità, c'è stata in conseguenza la caduta di molti altri alberi che avevano appunto questo sviluppo poco solido. Era una conseguenza che noi avevamo previsto, ma era necessaria perché sarebbero stati sempre degli alberi pericolosi per la fruizione all'interno del parco. Qui possiamo andare avanti. Allora, chiaramente i problemi di allagamento non sono scomparsi e siccome il terreno, lo possiamo vedere dalle indagini geognostiche, il terreno è un terreno di sedimentazione molto argilloso, c'è sempre stata... Allora, 10 minuti. Ok, quindi un problema che crea sempre dei problemi di allagamento, abbiamo fatto ulteriori opere di, come vedete, idrauliche. E questo è il sistema naturalistico del parco, che abbiamo suddiviso in alberature storiche, ecosistema acquatico, vegetazione autoctona e aree di salvaguardia della biodiversità, tutte le specie arboree del parco. Andiamo avanti e non ve le elenco, ma sono qui e le potete trovare all'interno. E qui una passeggiata dentro il parco, possiamo marcher da le parche e vedere tutte le piante. Qui è l'entrata al parco, è l'entrata che è proprio sotto l'asse della Roma Fiumicino, quindi con un grande impatto, come potete vedere, naturalistico, e quindi abbiamo messo in opera dei lavori di alleggerimento di questo impatto ambientale. Andiamo avanti, ecco, qui c'è il rapporto fra l'impianto portuale antico e moderno. Perché? Perché abbiamo cercato di alleggerire nei punti di entrata in mare antichi la vegetazione per poter permettere proprio lo sguardo, e quindi dove vegetazione bassa dove c'erano i canali d'ingresso e vegetazione alta nelle altre situazioni, come vedete le banchine. E un altro importantissimo un'altra importantissima nota è quello del rapporto fra gli scavi archeologici e il parco. Si cerca di mantenere un grande rispetto per entrambi i patrimoni, e quindi solo nei casi in cui è necessario, per una conoscenza archeologica approfondita, dover tagliare gli alberi, si procede in questo senso, se no si cerca sempre di trovare delle alternative. Ecco, qui questo per esempio un esempio è l'area della Basilica, in cui sono stati rispettati assolutamente i due patrimoni, e anche scelte particolari sono state fatte su quei manufatti che hanno perduto i piani elevati, e quindi è stata mantenuta la vegetazione superiore, chiaramente intervenendo prima con il restauro della parte sottostante, in modo che non si causassero dei ulteriori danni. Questo è il bacino esagonale, che come vi dicevo serviva come per irrigare, come sacca di irrigazione. E andiamo veloci e arriviamo alla Darsena, all'antica Darsena. L'antica Darsena è una parte coperta di vegetazione di canne, quindi palustre, e una parte ancora sopravvive lo spazio d'acqua. Ed è importantissima dal punto di vista biologico, è un biotopo, cioè un punto in cui tutti gli elementi particolari vengono racchiusi in un ambito importantissimo dal punto di vista dell'ecosistema. E vi è presente tutta una serie di vegetazione palustre, tipo le Phragmites australis, per cui l'acqua è anche dei livelli di purezza che non avremmo mai immaginato, ed è un punto chiaramente di stazionamento per gli uccelli. Questa è una curiosità data dalla sistemazione Torlonia, che in tutti i suoi ambiti, proprietà, sistema un bambuseto. Allora, qui velocemente, perché abbiamo poco tempo, le problematiche di conservazione fra le murature e la vegetazione. E una cosa importante da dire è che purtroppo il termine di pianta infestante nelle aree archeologiche ha un particolare significato, perché sono infestanti le piante che, proprio nella loro terminologia, che nascono dove non sono desiderate. E quindi nei parchi archeologici, nelle zone archeologiche, questo ha un significato particolare, perché piante di grande valore botanico possono essere invece considerate piante infestanti. Questa è la situazione, infatti, che troviamo anche all'interno del parco, in cui piante ormai storiche si sono insinuate nelle murature, creando dei grossi danni sia per il peso proprio della biomassa, sia perché gli apparati radicali secernono degli acidi che riescono a solubilizzare le malte, quindi a penetrare e a disgregare le malte. Si perdono le malte di aggregazione e si perde automaticamente il manufatto. Qui molto velocemente tutta una serie di immagini in cui questa situazione è evidente, fino ad arrivare all'indice di pericolosità. Che cos'è? Cioè, per ogni pianta, negli interventi di eliminazione delle piante, si fa un'indagine preliminare, si analizza molto bene che tipo di pericolosità ha quella pianta sul manufatto, perché non tutte le piante hanno la stessa pericolosità. È ovvio, chiaramente, che delle piante annuali oppure delle piante erbacee non hanno lo stesso danno, non creano lo stesso danno di piante che invece sono perenni e sono legnose, e quindi si interviene in maniera diversa a secondo della tipicità della pianta. Quindi l'indice è un indice numerico dato dalla somma di tutti questi valori che ogni pianta ha in seguito a quelle tre forme: biologica, di propagazione e dell'apparato radicale. E si interviene in questo senso, quindi se ho saltato qualcosa, ma è quello che abbiamo detto. Come vedete, lì per esempio c'è una farnia, qui c'è un fico, due piante completamente diverse, ma che creano tutte e due dei grossi danni. Come anche vedete il cotico erboso, che praticamente ha coperto tutte le parti ipogee, creando per esempio dei problemi nei momenti di intervento di sfalcio, per cui bisogna scegliere accuratamente i mezzi per poter intervenire, se no ci sono dei pericoli proprio per gli operatori. E qui forse qualcuno riconoscerà il luogo dove ha scavato, vero Evelyn? E quindi, quindi con grande pericolo, quindi l'École Française ha scavato proprio sotto questo grande pino che abbiamo cercato di mantenere sempre in sicurezza per chiaramente la sicurezza del... Ecco, queste sono sempre, quello che vi dicevo prima, la differenza fra le alberature di pregio e quelle di meno pregio, ma che creano entrambe delle problematiche. E questi sono degli interventi messi in atto per affrontare questo problema. Quindi, questi sono degli interventi di rinforzo delle strutture messe in sicurezza per poter poi avere dei punti panoramici per poter spaziare. Arriviamo adesso alla sistemazione del parco. Questa che prendiamo in esame è proprio il parco archeologico del porto di Traiano, e dove adesso già attualmente sono in corso sempre delle visite due volte a settimana, quindi sta aumentando la fruizione, e abbiamo pensato di organizzarla anche, come già ha spiegato Renato prima con il cartello, in visite con diversi spazi temporali e anche in visite che possono avere delle tematiche diverse. E si fanno anche corse campestri, degli avvenimenti culturali, degli spazi didattici per bambini, ma la cosa molto importante è anche quella di riconnettere il sistema del porto di Traiano con quello che invece è il sistema più generale del porto antico, che adesso ha questa scesura tremenda data dall'asse stradale che collega Fiumicino con l'aeroporto e con la Roma Fiumicino, che quindi divide proprio in due l'unità archeologica degli antichi parchi. Si vede anche l'idea di poter costruire un ponte di collegamento, e quindi sorvolando, visto che siamo vicino all'aeroporto, sorvolando proprio la problematica. E io direi che concludo dicendo soltanto una cosa importante dal punto di vista botanico e dell'ecosistema, perché il parco, come vi dicevo, ha questa grande importanza dal punto di vista dell'ecosistema, che all'interno del parco, malgrado la vicinanza con l'aeroporto, abbiamo fatto molte indagini biologiche e abbiamo visto che per esempio sulle murature, anche quelle restaurate da poco, si rinascono le piante pioniere e rinascono anche i licheni, che sono un indice anche della purezza dell'aria. Quindi, malgrado tutto, questa grande sacca di vegetazione funziona, perché abbiamo appunto sono state testate dalla presenza dei licheni. E questo, vabbè, un semplice schema delle percorrenze per quello che noi speriamo sia un accesso al parco nella sua totalità, con una affluenza, ma soprattutto con una conoscenza dell'area maggiore di quella di adesso, perché purtroppo è poco conosciuto soprattutto dalle persone di Ossia e di Fiumicino, di quelle che ci vivono più vicino. Merci.